Il festival si tiene principalmente nel comune di San Giorgio di Piano e negli altri comuni della Unione Ranogaliera, quindi siamo nella pianura nord di Bologna e si terrà dal 6 di marzo, che avremo il primo evento a San Giorgio di Piano, fino al 1 aprile e poi avremo uno strascico il 12 di aprile nel comune di Castelmaggiore con l'evento conclusivo. Saranno 16 incontri appunto tra comuni di San Giorgio, San Pietro in Casale, Castelmaggiore, Pieve di Cento, Bentivoglio e Argelato. Un programma ricco con 16 eventi più una serie di eventi off che ci accompagneranno praticamente con una certa intensità per circa un mesetto. Ci può fare una panoramica di quelli che sono i temi principali affrontati nel programma di quest'anno e se ci vuole anche anticipare qualche incontro importante? Un po' come è la cifra di questo festival, che giunge appunto alla quinta edizione, diciamo, i contenuti sono molto eterogenei, perché quello che abbiamo voluto privilegiare è più il metodo, lo strumento, che è quello della divulgazione, quindi dare la parola a persone che hanno delle competenze di merito molto forti, ma anche una buona capacità, un'ottima capacità di diffondere, quindi di comunicarle, di portarle e di portarle. Infatti non a caso lo slogan del festival è portatevi curiosità, proprio perché vuole essere un modo anche per stimolare chi partecipa, chi assiste agli eventi, e andare poi ad approfondire e magari a seguire questi divulgatori o le materie di cui loro si occupano. E quindi andiamo dalla natura, all'ecologia, alla storia, alla psicologia, alla filosofia, al teatro, quindi abbiamo anche forme artistiche diverse attraverso cui appunto divulgare delle conoscenze, quindi avremo anche un concerto, quindi posso già citare qualche ospite, avremo Giulio Boccaletti che è un importante fisico e che si esibirà diciamo con una conferenza alternandosi alla musica di un'orchestra dell'Orchestra Giovanile del Temporale. Avremo tanti ospiti, Maria Sole Bianco che è una bravissima divulgatrice, una biologa marina che insomma spesso è ospite a Geo&Geo, avremo Eric Gobetti che è uno storico, avremo Dario Bressanini che è un po' diciamo l'ospite principale, è stato dato uno dei primi grandi divulgatori anche sui social che abbiamo avuto in Italia e poi insomma tantissimi altri che vi invito insomma andare a consultare sulle nostre pagine social oppure sul sito festivaldivulgazione.it. Ci hai già un po' anticipato l'importanza di questo festival, se ci puoi ribadire qual è il suo obiettivo, appunto come mai è così importante? È nato come un piccolo festival, ma ormai è già alla sua quinta edizione. Sì, eravamo partiti, diciamo, lasciando tra parentesi davanti al titolo la parola piccolo, perché insomma volevamo, diciamo, non montarci la testa, ma sta diventando un evento, insomma, ormai non solo perché è giunta la quinta edizione, ma perché insomma abbiamo riscontrato una certa attenzione anche di divulgatori o persone che ci chiedono di partecipare. La filosofia è nata dall'idea appunto di alcuni amici, con l'appoggio dell'amministrazione comunale, che si sono detti che insomma forse c'era bisogno di mettersi in gioco e creare qualcosa per favorire appunto un approccio alla conoscenza che fosse lontano dalle pseudoscienze, lontano dalle superstizioni, dalle fake news, dalle bufale, e quindi cerchiamo di avere una sorta di direzione tecnica o scientifica molto rigorosa. Quindi stiamo cercando di essere molto attenti a non lasciare spazio a magari interventi o contenuti che non siano, come dire, scientificamente molto curati. Da qualsiasi punto di vista ne parliamo. Quindi se chiamiamo uno storico cerchiamo di fare in modo insomma che affronti le cose in maniera laica e consapevole, ma la stessa cosa ovviamente se chiamiamo uno scienziato, un naturalista, insomma, cerchiamo di stare molto attenti al fatto che non si scivoli verso quelle forme di, diciamo, pseudoscienza che sono poi il seme più pericoloso che si può lasciare nelle persone, perché poi potrebbero aprire spazio, diciamo, a un declino verso appunto credenze, ritualità e altro. Quindi, insomma, questo è un po' il nostro scopo. L'ingresso è gratuito, serve prenotarsi? L'ingresso è gratuito a tutti gli eventi, tranne uno che è lo spettacolo di Morici, perché è in collaborazione, sarà il 21 di marzo, in collaborazione con la Cine Teatrale Agorà, che è un'altra realtà molto importante nel nostro territorio, quindi in quel caso ci sarà un biglietto che si può prenotare sui canali della rassegna. Per il resto tutti gli incontri sono assolutamente gratuiti, ci si può prenotare attraverso, diciamo, i canali della nostra biblioteca comunale, però appunto quello che cerchiamo di fare è appunto di garantire l'accesso gratuito a tutti, proprio perché insomma l'idea è che la cultura sia un servizio pubblico e quindi che è già pagata da tutti noi con le tasse e quindi l'accesso deve essere assolutamente libero.